che è nato da Dio vince il mondo. La mia fede mi fa avanzare, la vittoria mi è già stata data, non ho più paura di affrontare. Sono vincitore, più che vincitore, per mezzo di colui che mi ha amato. Sono vincitore, più che vincitore, la mia vittoria viene dal Signore. Nulla può separarmi dal suo amore, né la vita né la morte. In tutte queste cose io trionfo per la potenza del suo nome forte. Se Dio è per me, chi sarà?